Colleghiamo adesso con Piero Bosio, che si trova sempre nei pressi del corteo delle tute bianche, dove sta avvenendo qualcosa. Piero Bosio. Sì, mi trovo in via Tolemaide, corso Torino, un furgone di carabinieri si è guastato e in questo momento è circondato da decine di persone. Mi hanno messo davanti un cassonetto, due cassonetti che riempiono di sassi, San Pietrini. I carabinieri sono fermi e se mi sto spostando, stanno cercando di scendere, adesso stanno tirando dentro i sassi, stanno scappando, stanno uscendo dal furgone, stanno tentando di scappare i carabinieri perché sono in trappola. Adesso sentite loro, ma sono manifestanti che li seguono. Il furgone è fermo, dentro c'è ancora uno dei carabinieri, sono dentro il furgone, intrappolati da due cassonetti. Adesso i manifestanti cercano di entrare dentro il furgone. Sono dentro il furgone c'è del fumo, ma ci sono i carabinieri dentro il furgone. Adesso stanno caricando, perché no, sono tornati indietro altri carabinieri per salvarli. La gente grida basta perché li stavano massacrando, questi due carabinieri. Guarda che carico. Adesso gli altri carabinieri che si erano allontanati dal corteo delle tute bianche sono tornati indietro per salvare i loro colleghi che sono rimasti intrappolati. Ma adesso molta gente dice basta perché diversi San Pietrini hanno colpito questi carabinieri e non sappiamo, adesso caricano, mi devo allontanare un po', questo è un carabiniere, è l'ultimo forse, vediamo dentro, sì, stanno recuperando quello che davano dentro, adesso è arrivato un altro furgone che si è messo in traverso per proteggere questo che era rimasto in trappola. Tutto questo accade all'ingresso di Corso Torino vicino alla ferrovia, mentre il corteo delle tute bianche adesso con i suoi scudi sta avanzando e inizia di nuovo la festaiola, a questo punto contro due furgoni. I carabinieri per ora non lanciano lacrimogeni, credo che stanno prendendo una decisione perché sono nei guai. Adesso gli hanno lanciato anche un palo della segnaletica stradale. Ecco, adesso il secondo furgone cerca di fuggire. Per i rumori che sentite sono tutti i San Pietrini che li colpiscono. Allora, 5-6 carabinieri sono rimasti calati e non sanno cosa fare. Cercano di proteggersi, sono nascosti dietro i furgoni, i carabinieri. Stanno poi in trappola, stanno scappando perché sono rimasti isolati, adesso i 5 carabinieri stanno indietreggiando, scappando verso i loro colleghi, uno cade sul fuoco e si prende un sacchettino sul cazzo. Adesso il furgone dei carabinieri è in mano ai manifestanti, che lo stanno sfondando con dei pali della segnaletica, quindi avremo circa una trentina di carabinieri che hanno fatto scudo a testuggine e indietreggiano piano piano verso via Torino, mentre i manifestanti avanzano lanciando di tutto. Ecco, adesso i carabinieri che fuggivano hanno raggiunto il secondo gruppo, saranno circa un centinaio, adesso sparano le cremogine, stiamo correndo tutti indietro. Bosio? Ecco, Bosio, scusami.